Presidente, tante volte lo sport riesce ad arrivare dove la politica e i contrasti etnici, sociali non arrivano. Voi del CSI lo sapete bene proprio perché lavorate a contatto con lo sport di base, con i giovani, vero? Sì, è proprio così, lo sappiamo bene noi, lo sanno bene tutte le società sportive di base di questo paese. Può sembrare strano, ma c'è un luogo in Italia dove i temi dell'immigrazione e dell'integrazione sono superati. È un luogo un po' curioso, particolare, una trentina di metri quadri, fatto come nei centri di accoglienza, spesso di docce, di panchine. Questo luogo è lo spogliatoio sostanzialmente. Ogni società sportiva sa che nel suo spogliatoio spesso ci sono ragazzi di paesi, di religioni, di culture molto diverse tra di loro, e tutto questo, quasi per magia, nello sport ogni differenza si annulla. In questo senso proprio il CSI sta mettendo a punto un progetto significativo, no? Che coinvolge anche Lampedusa e il suo sport. Ce ne vuole parlare, Presidente? Siamo partiti da Lampedusa, noi abbiamo la fortuna di avere qualche presenza come centro sportivo italiano a Lampedusa grazie ai nostri amici della Sicilia, in particolare di Agrigento, e partendo proprio da questa esperienza abbiamo un sogno che vogliamo concretizzare in realtà nelle prossime settimane: aprire una società sportiva in tutti i centri di accoglienza di questo paese, proprio perché lo sport ha delle potenzialità immediate nei luoghi di frontiera. E proprio perché lo sport non può certo risolvere i problemi dell'integrazione e dell'immigrazione del nostro paese, ma può fare in modo concreto un po' di bene dentro la vita quotidiana di un centro di accoglienza. Siamo in contatto con la Caritas italiana proprio per portare a termine questo progetto, questa iniziativa nel più breve tempo possibile.